Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15 in simultanea su Wombat, Onda Rossa, Neanderthal, Eustachio, Quar, Blackout, Spore. Ed eccoci qua quindi per un'altra puntata, una nuova puntata di Ponte Radio. Qui siamo Radio Wombat, oggi ai microfoni, alla regia, e quindi continuiamo il ciclo sul cibo, già iniziato un mese, anzi più forse fa. E, anche settimana prossima, il Ponte Radio settimana prossima si tratterà questo argomento, quindi questa diciamo la penultima, scusate, puntata. Ponte Radio è una trasmissione, come avete già sentito preannunciato in sigla, che è gestita collettivamente da 7 radio auto-organizzate, ridiciamole perché fa sempre bene, Wombat e siamo noi, Onda Rossa, Blackout, Spore, Neanderthal, Quar e Eustachio. Va in onda ogni venerdì dalle 13 alle 15 e ora noi in realtà siamo registrate, quindi non vediamo i contatti diciamo per scriverci in diretta, non lo vedremmo. E che dire, quindi oggi siamo qui appunto con Radio Wombat, 3 voci quest'oggi ai microfoni, e direi che vi preannuncio già la scaletta di oggi. Si dividerà in 4 diciamo contributi, 4 interventi. Il primo, un compagno del movimento Semterras a proposito degli accordi Mercosur, quindi tema molto attuale. Poi passeremo invece a un'intervista, un ragazzo di Firenze, riguardo a uno studio di tesi su i lavoratori, lavoratrici dell'ambito ristorazione, e lui ci parlerà anche degli scioperi sempre in questo ambito in atto in questo periodo a Firenze. Dopo di questo, invece, per diciamo staccare un po' con tutte queste interviste, vi mandiamo una rivisitazione radiofonica del Teatro Contadino Libertario a tema nuovi OGM, e quindi chiamate diciamo TEA, che è un tema che nell'ultimo mese l'avete sentito veramente ricorrente nell'ambito del Ponte Radio. Infine, ultimo contributo, sentiremo una compagna di Seeds for Palestine, che è un collettivo, un gruppo, insomma ce lo dirà meglio lei, neonato, che si tratta, come si può intuire dal nome, di diciamo tutela di tutto ciò che è il patrimonio agricolo e genomico del popolo palestinese. In quest'ambito però ci parlerà un po' in generale di tutta la problematica di varie metodologie di genocidio che Israele mette in atto quotidianamente anche nell'ambito appunto agricolo. Qualche secondo di musica e poi iniziamo con queste interviste. Ed eccoci, quindi dovremmo essere in collegamento con il primo ospite di stasera. Siamo in collegamento con Antonio di Medici per l'Ambiente Liguria ISDE, ma soprattutto membro del Comitato degli Amici del Movimento Senterras Italia. Ci senti forte e chiaro, Antonio? Ci senti? Ci senti, Antonio? Sì, sento benissimo. Oh, perfetto. E oggi, insomma, come ti chiedevamo, insomma, in questa puntata di Ponte Radio speciale su Radio Wombat, volevamo, insomma, capire un pochino con te che cos'è questo accordo Mercosur e che cosa implica o implicherebbe, nel caso in cui fosse accettato, sia per i paesi come il Brasile, quindi magari, insomma, dal punto di vista del Movimento Senterras, ma anche cosa succederebbe proprio nel cibo, sui piatti di noi italiani. E poi sappiamo benissimo che ieri c'è stata appunto una svolta in tutta questa storia degli accordi, c'è stato, diciamo, una specie di blocco da parte del Parlamento. Hai sentito la domanda, scusa? Ma non sento tanto bene. Ho sentito l'ultima parte che dice che c'è stato un blocco del Parlamento, ma mi sembra era molto lontana la voce. Allora aspetta. Adesso sento meglio. Aspetta, la riformuliamo vai, allora. No, allora, ti chiedevamo, insomma, ti sei presentato come appunto membro degli Amigos del Movimento Senterras e come, insomma, come ISDE, sì, quindi Medici per l'Ambiente della Regione Liguria, e oggi, insomma, con te volevamo un pochino parlare di questo accordo del Mercosur, che appunto... Guarda, ho un gran rimbombo, sento male. Senti male, non so come fare. Beh, noi smettiamo di parlare e raccontaci te qualcosa sul Mercosur. Prova a parlare e a dirci se riesci a... Adesso se ti sento bene. Quando, quando parlo io mi sentite bene? Sì. Ti sentiamo bene, sì. Quindi vai. Va bene, vai. Allora, quindi la domanda era come va in Brasile rispetto alla situazione del trattato, anche dopo rispetto al Movimento Senterra, ai movimenti contadini e alla popolazione, diciamo così, in generale. Esatto. Va bene, allora posso incominciare a dire qualcosa? Sì. Va bene, allora io sono molto ammirato dal Movimento Senterra e da più di 30 anni collaboro. E credo che la prima cosa che bisogna ricordare del Movimento Senterra e di tutto, che fa parte di Via Campesina Internazionale, un movimento di 200 milioni di piccoli contadini del mondo, è che le loro due grandi parole d'ordine sono la sovranità alimentare e l'agroecologia. E sono paesi enormi che hanno, il Brasile è grande 27 volte l'Italia, solo 210 milioni di popolazione, l'Argentina è grande 10 volte l'Italia, quasi a 45 milioni. Quindi hanno un grandissimo territorio, concupito da molti, e sono contrari al cibo industriale, al cibo ultraprocessato prodotto dalle coltivazioni dell'agrobusiness, loro la chiamano agrobis, anche l'agroindustria. Il risultato però è che lì sta trionfando in Brasile, come in tutta l'America Latina e nei paesi del sud, tanto è vero che sono arrivati ad avere delle conseguenze sulla popolazione di urbanizzazione enorme. In Brasile e in Argentina l'urbanizzazione è del 92%. Quindi vivono tutti sulle coste o nelle città, in condizioni di povertà. E in Brasile siamo all'85% circa, nonostante appunto questo enorme territorio. E la cosa da collegare immediatamente è il fatto che i due terzi, nel 2025 i dati sono che il 31% dei brasiliani adulti sono obesi, il 68% sovrappeso. Questo come sta avvenendo sempre di più nei paesi poveri, perché mangiano cibi ultraprocessati, cibi spazzatura, cioè con poco nutrienti, tanti grassi, eccetera. Allora, questo accordo in una situazione in cui mangiano delle schifezze, producono fondamentalmente soia e mais da esportare, e quindi poi invece mangiano le robe ultra confezionate dei supermercati, In questa situazione, questo trattato Unione Europea-Mercosur, che è, di cui si è iniziato a discutere addirittura nel 1990, e l'MST lo diceva che aveva un DNA neoliberale. Poi le trattative vere e proprie sono da 25 anni. Cos'è successo? Anche quando ci sono stati in questi ultimi 25 anni parecchi governi democratici, ecco, non c'è stato sempre solo Bolsonaro, la maggior parte del periodo, dal 2001 adesso, c'è stato i governi Lula, la Dilma Rousseff, eccetera. Le cose vanno male come in tutto il mondo, prima di tutto appunto questa roba dell'urbanizzazione che porta oggettivamente a mangiare cose comprate, ultraprocessate, e quindi piene di calorie e di scadenze e non di nutrienti, a basso costo. Questo è il problema, che costano poco. E quindi questo ha corrisposto, per darvi due dati, al fatto che l'agrobusiness in Brasile ha aumentato la percentuale di terra coltivata da 60 milioni di ettari negli ultimi 20-30 anni a 80 milioni di ettari, di cui di questi 80 milioni, 60 milioni ce l'ha in mano proprio solo l'agrobusiness, 40 milioni a soia, mais e trattata con pesticidi anche proibiti in Europa, 20 milioni il mais e 40 milioni la soia, come ho già detto, con pesticidi di cui il Brasile è il più grande produttore mondiale e più grande consumatore, non produttore, ci mancherebbe, consumatore, perché li importa dall'Unione Europea e importa anche tutti quelli che sono proibiti in Unione Europea. Faccio un esempio della tranzina, che è da 30 anni che da noi non si può usare. Ora, questa però la cosa triste è che questa importazione e quindi utilizzo di pesticidi è stata anche raddoppiata dall'ultimo governo Lula, che è di un anno e mezzo circa fa, che tra l'altro non solo nell'import, ma ne ha autorizzati l'utilizzo di altri 700 tipi. E questo è il fatto che non c'è stato in realtà nessun cambiamento in quella cosa che appunto il loro obiettivo, il loro orizzonte, della loro lotta è quello di fare una riforma agraria popolare. Finisco questo discorso sull'inquadramento sul Brasile spiegando cosa vuol dire il passaggio dal volere la riforma agraria, cioè che i contadini volevano la terra che avevano ancora gli eredi del colonialismo, dai portoghesi in poi, in gran parte tenevano anche non utilizzate, eccetera. Quindi non volevano andare a finire a fare i delinquenti nelle favele, volevano continuare a fare i contadini. Era la riforma agraria dell'MST, che è un movimento che è nato 40 anni fa ormai. L'hanno definita nell'ultimo incontro di qualche anno fa che c'era bisogno di una riforma agraria popolare. Cosa voleva dire? Che se i cittadini non contribuivano a cambiare l'uso della terra e gli impatti ambientali e la crisi ambientale, no, si continuava a perdere. Questo è un po' il concetto. Cioè, quindi una riforma agraria popolare, che non è un problema credo che solo dei brasiliani o dell'America del Sud, è anche come noi trattiamo la terra rovinandola e mangiando schifezze. Questo poteva essere un po', se volete, un'introduzione. E senti, andando poi appunto ad analizzare quello che è l'accordo di adesso col Mercosur, ci dici un po', come se noi non ne sapessimo niente, in cosa consiste e perché associazioni o gruppi come il Movimento Senterra sono contrari e quali sono appunto gli aspetti negativi sia dal lato europeo che dal lato appunto del Sud America? Beh, quindi io so che avete già fatto degli incontri, mi pare, forse con qualcuno proprio sull'Unione Europea, e l'argomento è molto interessante perché ci sono spaccature enormi, qui non è destra e sinistra. In Italia hanno chiamato ministero, hanno aggiunto la sovranità alimentare, però l'Italia, che era decisiva nel voto della Consiglio europeo, prima aveva detto che votava contro, poi ha votato a favore Fratelli d'Italia, eccetera, e quindi è stata determinante, mentre la Francia ha mantenuto il voto contrario, però a livello europeo si è perso per colpa dell'Italia. Questo lo dobbiamo dire, che se l'Italia avesse votato nel Consiglio d'Europa contro il trattato non sarebbe andato a essere firmato in America Latina. Questo è il punto. E questo è avvenuto perché la spinta anche qui diciamo anche chiaro, non c'è nessuna spinta popolare. La gente va nei supermercati, non capisce niente, le etichette sono una buffonata e quindi mangia e guarda solo se costa un po' di meno, senza capire che questo vuol dire che può ammalarsi di più. Siamo a un livello di individualismo anche su questo terreno, e la vecchia frase di Ippocrate che il cibo è la salute della cosa, non negli ospedali, il cibo è la salute, non fa parte più di un popolo che ragiona poco. Quindi il problema è riattivare, partendo da questa contraddizione che prima è stato approvato dal Consiglio d'Europa, cioè quindi dagli stati, dai governi, poi invece è stato bocciato dal Parlamento europeo con delle contraddizioni enormi, perché hanno votato quelli che potremmo chiamare tutto tra virgolette di sinistra o di destra, e questo è una grande scossone che io credo dobbiamo tener conto per rifare una narrazione di cosa vuol dire cibo, salute e ambiente, perché il cibo non solo fa ammalare, il cibo ultraprocessato, il cibo spazzatura eccetera, ma per farlo ci sono emissioni di gas serra che i brasiliani, l'MST aveva studiato, e Via Campesina aveva studiato molto bene, dicendo che il cibo spazzatura, il cibo processato, il cibo dei supermercati, tanto per intenderci, dà origine dal 45 al 50% dei gas serra di tutta la produzione del cibo, tra la deforestazione ad uso agricoltura, quello che ci scandalizza ogni tanto dell'Amazzonia, ma non capiamo che non è solo l'Amazzonia, la produzione, i trasporti, il congelamento, tutto il ciclo per arrivare è metà dei gas serra, questi sono studi di Grain, un'organizzazione scientifica, non sono cose che so io, ma queste cose l'MST le discute all'interno del discorso appunto, loro piantano degli alberi, però dicono chiaramente, e stanno facendo una campagna, piantiamo alberi, contraria alla deforestazione, però nello stesso tempo dicono anche chiaramente che non è piantando gli alberi in cui l'effetto poi anche contro il gas serra avviene dopo 10 anni eccetera, che risolverà il problema, o si diminuisce la distruzione oppure. Quindi in questo senso qui il discorso di quello che sta succedendo in Italia e anche in Brasile, bisogna vedere che sono due, in Italia per dire in Europa, sono due vergogne, che però se il popolo non si sveglia. In Brasile, tra l'altro, una delle vergogne più grandi è che Lula ha detto che andava bene questo trattato Unione-Mercosur, dicendo che era un momento di dialogo col multilateralismo. Perché bisogna vedere i rapporti con BRICS, eccetera. Mentre invece l'MST e i movimenti contadini dicono il contrario, dicono che questa roba qui continua a favorire un percorso di esportazione, ma poi di importazione, non fondamentalmente di macchinari industriali. Loro dicono chi comanda è la Germania. La Germania è quella che ha interesse a questo trattato fondamentale e l'Italia si accoda. Ma la Germania ha questo interesse per tre motivi. Primo, per esportare macchine, autoveicoli. Secondo, macchinari industriali. E terzo, pesticidi. Queste sono le cose che l'MST nei suoi articoli, nei suoi documenti, dice con grande chiarezza. Quindi il problema è la Germania. La Germania è un paese che oggi mangia quello che mangia, fa quello che fa, ha sempre perso le guerre, ma oggi alla fine noi dobbiamo vedere come alla fine la Meloni e i suoi soci, ma anche tutto il PD, hanno votato succubi della Germania, che era quella fondamentale. Se l'Italia avesse votato insieme con la Francia in Consiglio europeo, questo non passava, e quindi non c'era neanche il preambolo del fatto che in Parlamento europeo sia stato meno male bocciato, eccetera. E a questo punto anche molti, tra virgolette, perlomeno ambigui come associazioni contadine, come la Coldiretti, che è sempre stata più di centro, eccetera, a questo punto hanno detto anche loro che non andava bene. Prima gli andava bene. Quindi si sono aperte delle contraddizioni enormi, perché quelli più contrari in Italia sono la Lega, ma anche a livello europeo, la FD, cioè questa contraddizione. La cosa più vergognosa per quel che riguarda il Brasile è che Lula, quando c'è stato l'accordo firmato tra l'Unione Europea, il commissario dell'Unione Europea e i rappresentanti dei vari governi del Mercosur, quindi Paraguay, Uruguay, Argentina e Brasile, Lula non si è presentato alla firma. Cioè siamo a un livello in cui anche la rappresentanza politica, pur con tutte le difficoltà che c'è in Brasile, i popoli che vengono da colpi di Stato più violenti di tutti nel mondo, però che questo uomo che ha 80 passi anni non riescono a trovare un ricambio di questa persona, e che dica che va bene questo trattato UE Mercosur e poi non ha neanche il coraggio di andare a firmarlo, perché lì insieme con lui ci sono stati Macri e Milei, quello argentino, Macri era quello di prima, Milei e quegli altri dell'Uruguay e Paraguay che sono di destra, e allora non ha avuto neanche il coraggio di andare a firmare. Quindi credo che oggi anche il Movimento Senterra, che in questi giorni sta facendo il suo incontro nazionale a cui partecipano 3.000 persone, sia in grossa difficoltà di una situazione in cui la popolazione urbana non riesce a ribellarsi come per le difficoltà proprio di vita che hanno, oppresse nell'aumento delle favele che sono in mano a gang e alla mafia e alla polizia che vanno d'accordo. E la popolazione contadina in Brasile è dimezzata negli ultimi 20 anni, dal 16% all'8%. In Argentina non c'è mai stata, o non ce n'è, praticamente sono al 2% di contadini, nonostante tutta la terra che hanno, e di fatti si parla che c'è praticamente un'agricoltura senza contadini. Chiaro, Antonio. Con gli aeroplani e noi mangiamo, e noi siamo così ipocriti che mangiamo tutte le schifezze che poi mangiano gli allevamenti intensivi italiani. Bene Antonio, noi ti ringraziamo, purtroppo il tempo passa velocissimamente. Ho capito, però per quello acceleravo anch'io. C'è dato un bel escurso insomma su quello che sta succedendo, e quindi non possiamo solo che augurarci che questo trattato non passi. Cioè ora è stato bloccato, speriamo... E che speriamo anche qualche riforma contadina. Se avete bisogno, anche di... Io ho dovuto fare un po' veloce, perché insomma, però volevo dare alcuni dati concreti, insomma, spero di avere dato qualche idea. Ottimo, grazie mille, a presto. Ciao belli, ciao. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Ciao. E quindi ecco fatto, diciamo, il primo collegamento. Per concluderlo per davvero vorremmo mandare una canzone che c'era stata suggerita proprio da, appunto, Antonio Lupo, che abbiamo appena sentito ai microfoni. Questa è Caminos Alternativos. Plantar o arroz ali, se plantar o milho acolá, um jeito de produzir, pra gente se alimentar. Primeiro canta do galo, já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama. Amar o campo, ao fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra, e nela botar semente, a gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. A gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Choro virou alegria, a fome virou fartura, e na festa da colheita, viola e noite de lua, mutirão é harmonia, com cheiro de natureza, o sol se esconde na serra e a gente acende a fogueira. Amar o campo, ao fazer a plantação, não envenenar o campo, é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. Quando se envenena a terra, a chuva leva pro rio, nossa poesia chora se a vida tá por um fio. E ela é pra ser vivida com sonho, arte e beleza, caminhos alternativos de alimentação na mesa. Amar o campo ao fazer a plantação. Ed eccoci, torniamo in voce, appunto questo è Ponte Radio, oggi la direzione è fatta da Radio Wombat, in particolare cose che non ho fatto a inizio puntata, lo faccio ora, vorrei specificare che diciamo questo Ponte Radio è frutto di un mashup di in un certo senso Nervature, quindi io Addu e Radio Contado soprattutto, quindi le altre due presenze qui in regia sono le creatrici, fautrici di Radio Contado, trasmissione che vi parla, vabbè lo dico io, vabbè, che vi parla di ambito contadino, lotte contadine e saperi contadini ogni venerdì dalle 15.30 alle 17.30 su Radio Wombat, quindi chiunque all'ascolto a giro per l'Italia e gli interessino questi temi può andarselo a spulciare dal nostro sito radiowombat.net per i podcast o anche per lo streaming e semmai anche le frequenze AM 1359, anzi no, quelle sono nell'area fiorentina, ho sbagliato, scusate. Oh, scusate, eravate mute, ho sbagliato? Vai. C'è solo una piccola parte dell'area fiorentina. Sì, sì, comunque. Hai fatto una super presentazione della nostra trasmissione. Grazie. Che registreremo perché noi di solito la facciamo molto peggio. Accidenti. E tra l'altro appunto questo Ponte Radio finisce alle 15 e Radio Contado la iniziate mezz'ora dopo. Alle 15.30. Quindi... Voleremo in stazione. Sentirete le stesse voci chi ci ascolta da Firenze di fila. Esatto, non ne abbiate annoia. 4 ore consecutive. Esatto, allora detto questo ci teletrasportiamo nel prossimo collegamento, faccio la chiamata e arriviamo subito. We'll be right back. Ed eccoci qui, dovremmo essere pronte con il prossimo collegamento. Ci senti, Cosimo? Vi sento forte e chiaro. Perfetto. Ciao a tutti e tutti. Ciao anche a te. Allora, come avevamo detto in apertura di puntata, sei qui interrogato da noi perché ti vogliamo chiedere riguardo al tuo studio di tesi dell'anno 2023-2024, ma in realtà è mega attuale, il cui titolo, mi permetto di leggerlo, Un'industria senza fabbrica, indagine sul lavoro nella ristorazione nel centro storico di Firenze. È molto esplicativo già il titolo, è un lavoro molto molto molto interessante, già mi viene da complimentarmi veramente con questo grande impegno, e il titolo proprio, Un'industria senza fabbrica, avrei tante cose da chiederti, però forse proprio essere cattiva inizierei già proprio dal titolo, quindi che è un po' il nocciolo ovviamente della questione. Te dici è chiaramente un'industria, e questo lo riconoscono tutti, che l'industria della ristorazione è tale, però forse si assomiglia tanto con una fabbrica, quindi dove ci sono lavoratori, dove ci sono datori di lavoro, lavoratori, operai, e dove c'è il profitto, la produzione, l'efficienza, no? e un prodotto finale. Quindi vorrei, se ti va, diciamo, di provare mi rendo conto, poco tempo a dire, spiegarci un po' questo parallelismo a cui sei arrivato. Sì, assolutamente. Intanto grazie per i complimenti, poi lo dico subito, se chiunque, insomma, volesse leggere la tesi attraverso il sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università di Firenze già è accessibile. E, insomma, io dovrei avervela inviata, chiunque ve la chieda vi prego, insomma, di inoltrargliela. Penso sarà sia, fatto, insomma, importante condividere quello che si può. Allora, sì, il fatto di parlare di fabbrica vuol dire cercare di individuare qual è il ruolo del centro di Firenze all'interno, diciamo, della produzione, delle catene del valore che si dispiegano sul territorio metropolitano. In particolare il centro di Firenze, attraverso l'industria turistica, all'interno della quale si inserisce, soprattutto in questo contesto, particolarmente quella della ristorazione, crea un contesto di lavoro che, come dicevi giustamente, è intanto caratterizzato da un rapporto che è appunto quello tra padrone e lavoratori. Quindi c'è chi produce delle merci che in questo caso sono servizi in buona parte, quindi pur avendo un aggancio materiale che può essere il piatto che viene portato in tavola, però ovviamente la merce che viene venduta è tutta l'interazione, quindi anche i sorrisi, l'emotività, tutto questo lato, diciamo, intimo delle lavoratrici, dei lavoratori, che quindi poi, diciamo, anche questa è una delle grandi fonti di stress legate a questo tipo di lavoro, però appunto vengono venduti dei servizi e questo avviene in un contesto in cui interi quartieri della nostra città, intere zone, potremmo quasi parlare di distretti del cibo, vengono caratterizzati da fenomeni che sono stati definiti prendendo spunto dal termine di gentrification, quindi identifica la sostituzione della popolazione residente con una popolazione più abbiente, fenomeni di foodification, quindi di trasformazione del panorama commerciale e economico di intere aree della città con una monocultura turistica improntata all'offerta di, diciamo, ristorativa, quindi di cibo, bevande, gelati, caffè, eccetera. È un'industria che si caratterizza per una concentrazione di tante imprese diverse, piccole, ma estremamente concentrate in spazi, anche questi altrettanto piccoli e, diciamo, dai confini anche abbastanza ben delimitati. Nelle zone che io ho studiato, che erano, per chi di Firenze ci ascolta, quartieri di Sant'Ambrogio, del Duomo e di Santo Spirito, ho rilevato 384 esercizi di ristorazione per chilometro quadrato, che ci sono intere strade e chi le ha attraversate lo sa bene, in cui non c'è nessun altro esercizio commerciale che non sia legato al cibo o alle bevande. Ovviamente per fare profitto e estrarre profitto dalla città, sicuramente servono i monumenti, sicuramente servono i turisti che vengono a visitarli, però ovviamente servono altrettanto i lavoratori e le lavoratrici che con il loro sudore, il loro sangue e la loro fatica producono tutto questo valore. Questi sono numeri impressionanti. Per la stima che abbiamo fatto attraverso questo studio, si parla solo nel centro di Firenze, quindi solo nel quartiere 1, di almeno 20.000 lavoratori e lavoratrici solo della ristorazione, quindi non stiamo contando tutti quelli degli alberghi, con eventualmente anche il ristorante dell'albergo, non stiamo contando quelli che lavorano nelle pulizie, nell'Airbnb, quelli che fanno check-in, le agenzie di viaggi, eccetera. Quindi se pensiamo poi all'industria turistica che attira ogni anno 110 turisti per residente in queste aree, appunto se pensiamo all'industria turistica, il numero di lavoratori che vi è coinvolto in uno spazio così limitato, perché si parla di qualche chilometro quadrato, non è che il centro di Firenze sia chissà quanto grande, appunto sono numeri enormi. Senza dubbio, sì, sono veramente impressionanti. Proprio vederli scritti su carta fa ancora più paura forse di vederli nella realtà, cioè, se ne rende veramente conto. Senti, ti volevo chiedere magari se ci spieghi come hai svolto la tesi, ovvero il fatto che sei andato proprio a confrontarti, a intervistare, credo fosse sotto forma di intervista, tantissime lavoratori e lavoratrici di questi appunto ristoranti e simili, e magari anche diciamo che tipo di campione hai preso, italiani, non italiani, donne, uomini, eccetera. Allora, la premessa che va fatta è che, essendo questo stato un lavoro di tesi magistrale, per quanto con tutto l'impegno che ci abbiamo profuso, sia io che un altro ragazzo, compagno che ha collaborato con me e il laboratorio di geografia sociale che l'Università di Firenze ci ha supportato, essendo appunto un lavoro di tesi, quindi con dei tempi, delle energie necessariamente limitati, quello che siamo il segmento che siamo riusciti a raggiungere è comunque di quelle soggettività più, diciamo, privilegiate. Poi ovviamente insomma, fa ridere ora quando sentiamo i numeri, fa ridere pensare che queste persone siano privilegiate, però appunto ci sono tante altre persone come quelli, per dire, posso dire, i lavapiatti o chi fa le pulizie nei ristoranti o così, che non sono stati purtroppo interessati dallo studio, nel senso che non siamo riusciti a raggiungerli, che vivono condizioni ancora enormemente peggiori rispetto a quelle che abbiamo potuto rilevare. Rispetto al campione, appunto, quindi oltre a dire questo, quindi sicuramente c'è una percentuale di migranti, insomma di lavoratori con passato migratorio è bassa, si parla di un 23%, e invece quella di genere più o meno è circa metà. Chiaramente con una differenziazione, poi insomma se interessa possiamo parlare tra sale e cucina, nel senso che ovviamente nel senso, penso che chiunque si possa immaginare che per chi, insomma, chi ha frequentato anche solo da cliente ristoranti, che le cucine sono un ambiente estremamente maschile e in molti casi possiamo dire anche machista e virilista, mentre le donne vengono segregate, diciamo, in sala, dove diciamo avere una donna che ti serve al ristorante quando hai una donna che ti serve a casa è, diciamo, perfettamente coerente, oltre appunto tutto il lato di sessualizzazione delle lavoratrici. Chiarissimo, insomma, sì. Purtroppo si ritrovano i meccanismi appunto di machismo, come dicevi te, anche in quest'ambito qui, anzi si ritrovano in modo molto molto forte. E se non sbaglio, infatti, dicevi anche che, per esempio, scusate questo rumore, mi rendo conto, è colpa del mio microfono, ma non so cosa farci. Comunque, se non sbaglio, appunto, evidenziavi anche il fatto che, a parte la differenza tra sala e cucina, c'è anche la differenza in generale fra ruolo dirigenziale e invece, diciamo, sottoposto, no? Quindi lavoratrice. E quindi, anche qui, se ho capito bene, appunto, ti sei rivolto proprio di persona a una serie di interviste e mi ha stuzzicato molto, appunto, il fatto che hai centrato, mi sembra, molto il tuo studio da un punto di vista, diciamo, vari tipi di analisi, abbiamo già capito, infatti, quello diciamo più economico, quello legato proprio strettamente ai contratti di lavoro, ma anche mi sembra tu abbia avuto un'attenzione particolare verso proprio le relazioni sociali che si tessono all'interno dell'ambito, in questo caso quindi ristorazione, ma anche all'interno della città. Quindi il fatto che te, per esempio, ma come tutte e tutti noi, in quanto cittadino fiorentino, percepisci e vivi soprattutto alla città in un certo modo e ne fruisci, ne benefici in un certo modo, e invece chi è nell'ambito ristorazione la vede un po' in modo diverso, se ci puoi parlare un po' di questo. Sì, allora appunto, diciamo, il fatto che si crei che lo spazio si strutturi in un certo modo, quindi con una, diciamo, uniformità estremamente forte negli usi, nei modi, nei tempi d'uso dello spazio, quindi in determinate zone ci sono appunto solo ristoranti. Quindi da un lato questo, cioè, per la maggior parte di noi, l'abbiamo visto sicuramente tutti come clienti, quindi ci si reca in un'area in cui so che voglio andare a mangiare fuori, magari non so neanche ancora cosa, però so che lì troverò tutto quello di cui posso aver bisogno, e quindi questo evidentemente alimenta il costruirsi dell'industria in questo modo. Dal lato dei lavoratori, ovviamente, si crea una situazione in cui i lavoratori iniziano, ma soprattutto finiscono di lavorare più o meno tutti alla stessa ora, in genere in orari cosiddetti antisociali, perché si lavora quando gli altri si divertono, perché insomma nell'industria del divertimento, dell'intrattenimento, funziona evidentemente così, e quindi questi lavoratori si da un lato hanno difficoltà a incontrare, a relazionarsi, a socializzare con persone che sono al di fuori di questo settore. Dall'altro sono, per questa enorme concentrazione, facilitati nell'interagire tra di loro, quindi si crea una dinamica per la quale questi lavoratori si riconoscono come colleghi o quasi come colleghi a seconda delle situazioni, pur lavorando in imprese differenti, quindi il ristorante e il bar vicini, i lavoratori si riconoscono tra di loro come simili. Nel farlo quindi si creano anche dei legami di solidarietà tra queste persone, che quindi si aiutano e da un lato con un supporto emotivo e psicologico, dato appunto diciamo lo sfruttamento che anche emotivo, il lavoro emotivo che queste persone svolgono, perché appunto devi sempre sorridere, devi insomma presentarti in un certo modo per i clienti. E da un lato c'è questo supporto emotivo, psicologico, di persone estremamente abituate appunto a lavorare nelle relazioni, dall'altro c'è anche il supporto materiale, che va dall'offrirsi, dal bere, da mangiare, quindi se per esempio io lavoro in un ristorante e un mio amico lavora nel bar accanto, lui verrà a mangiare da me e gli farò un piatto gratis o a poco prezzo, io quando stacco andrò a bere un drink da lui e lui contraccambierà, diciamo, il favore. Questo evidentemente da un lato viene da un sentimento positivo di solidarietà che dà anche la possibilità appunto al creare una comunità occupazionale che potenzialmente può anche diventare un qualcosa d'altro. Dall'altro lato, evidentemente queste sono integrazioni al reddito che fanno sì che queste persone si accollino di fare un lavoro male retribuito, poco gratificante per tanti aspetti, in ambienti di lavoro malsani, così, perché hanno un altro tipo di integrazione al reddito. Quindi diciamo che si configura come un'arma a doppio taglio, nel senso che tendenzialmente porta a un abbassamento o comunque a un non innalzamento degli stipendi nonostante l'inflazione galoppante, eccetera. Ovviamente, essendo questa una comunità in cui i padroni hanno spesso sono relativamente giovani, in cui anche gli stili di consumo si conformano sulla base di quelli dei clienti, quindi il cameriere che serve sempre vino buono, difficilmente poi si berrà il tavernello anche quando esce con gli amici, ma pretenderà, rispetto alle cose che diciamo per cui ha sviluppato un gusto, pretenderà una certa qualità. Quindi insomma ci si comporta in modo molto simile. In più sono imprese piccole, quindi anche le relazioni diciamo di potere sono magari meno chiare su se il mio capo è chiaramente il mio capo, il capo dell'altro per qualcuno è un collega, non vede più bene la distinzione. In questa comunità quindi interclasse ovviamente i padroni continuano a giocare un ruolo dominante, e quindi se io devo usare il mio capitale sociale, come definiva Bourdieu, che identificava il capitale economico, culturale e sociale, se io devo usare il mio capitale sociale, quindi le relazioni che ho stretto, i favori che ho dato, eccetera, per accedere a questi benefit ulteriori rispetto allo stipendio, questo capitale sociale è sottomesso a quello del mio padrone, che potrà in qualsiasi momento non solo licenziarmi se io dovessi fare un'avvertenza o dovessi scontrarmi con lui, ma potrebbe anche parlare male di me con tutta la rete di suoi ristoratori e quindi cercare di impedirmi di essere assunto da un'altra parte. Senti, in questo ovviamente questo poi mi inserisco, purtroppo perché cioè veramente ti vorrei lasciar parlare, però purtroppo il tempo non è tantissimo. E come avevo detto anche in apertura, ti volevamo chiedere anche un po' se ci fai un po' una panoramica delle lotte sindacali in questo ambito della ristorazione, appunto lotte recenti e in atto adesso. E quindi scusami se ti ho interrotto, perché comunque stavi un po' parlando anche di quest'ambito qua. E quindi ti direi forse gli ultimi 5 minuti magari li dedichiamo a questo. Più che volentieri. Sì, scusate, poi anch'io, insomma, queste cose ci sarebbe tanto da dire. Allora, rispetto agli scioperi, è iniziata grazie al sindacato Scobas, anzi grazie prima di tutto ai lavoratori che si sono attivati, questo poi magari ci ritorniamo, e poi grazie diciamo con l'organizzazione del sindacato Scobas si è attivata una campagna di scioperi nella ristorazione, si chiama Taste the Strike, che già ha avuto dei notevoli risultati, soprattutto in un ambito appunto che viene narrato come insindacalizzabile. In particolare si sono già concluse da novembre a ora 4 vertenze in cui, grazie alle quali sono state ottenute 6 regolarizzazioni con contratti a tempo indeterminato, full time, scatti di livello, ovviamente le ferie, la malattia 13esima, 14esima e anche delle condizioni migliorative rispetto al contratto nazionale, che purtroppo per questo settore è proprio si vede chiaramente uno di quei contratti che non deriva dalla forza delle lotte, ma dalla volontà di sfruttare dei padroni organizzati, e quindi necessariamente si devono chiedere anche condizioni migliorative rispetto al contratto nazionale, quindi per esempio la malattia pagata dal primo giorno o la possibilità di avere ferie continuative per i lavoratori stranieri che hanno necessità ovviamente di tornare al proprio paese per trovare la famiglia, gli amici. E, abbiamo in questo momento una trattativa aperta e quindi appunto quello che mi premeva dire è che i lavoratori già si attivano, questo già succede, io l'ho visto anche attraverso la mia ricerca, molti hanno coscienza di come funziona questo sistema di sfruttamento e molti, sebbene non siano tantissimi, già hanno provato a rivolgersi a sindacati o a provare a organizzarsi autonomamente, hanno organizzato scioperi spontanei. Il problema è che quello che succede è che i sindacati, invece di provare a lottare, mettercela tutta per vincere, organizzano la sconfitta dei lavoratori già cominciando a scoraggiarli fin da subito e facendogli paura invece che infondergli il coraggio che insomma sarebbe nel loro ruolo. Noi invece abbiamo dimostrato che vincere non è possibile, cioè non solo è possibile lottare e scioperare in questi contesti che appunto vengono raccontati come insindacalizzabili, perché le imprese sono piccole, perché i lavoratori sono pochi, perché ci sono bassi margini di profitto. Beh, nel senso, noi l'abbiamo visto ora che abbiamo ottenuto delle vittorie e l'abbiamo potuto fare solo grazie a due cose. Una è lo sciopero duro, lo sciopero oltranza, andare davanti alle porte del ristorante, essere pronti a bloccare la merce, essere pronti a stare ore a urlare davanti al ristorante e cioè, per una comunità di lotta, e questo è il secondo fattore, perché senza la solidarietà attiva di tutti i lavoratori del sindacato e del territorio, perché tante persone sono venute anche appunto senza avere diciamo niente a che fare col sindacato, ma semplicemente per supportare queste lotte, senza questa solidarietà tutto questo non sarebbe stato possibile, perché chiaramente quattro vertenze, sei regolarizzazioni fa capire che i numeri diciamo di lavoratori per ristorante sono 1, 2, 3 a seconda del caso. E quindi appunto essere pronti a bloccare tutto fino alla vittoria, e per una comunità di lotta che si è formata sedendosi davanti ai camion, dovendo stare mesi in presidio al freddo, al caldo, dovendosi organizzare così, quando si tratta di lottare contro il ristorante, cioè le condizioni sono molto migliori, i padroni non possono scappare perché il nome del ristorante è legato al luogo in cui è, eccetera, perché questi stanno aperti in determinate ore del giorno e la cena la danno all'ora di cena, se li blocchi quel momento lì, e loro non danno la cena a mezzanotte. Quindi cioè, diciamo, in realtà paradossalmente nel momento in cui c'è una comunità che è pronta ad attivarsi, è pronta a lottare, la situazione è particolarmente favorevole. Quindi ecco, il nostro invito è anche a chi si trova sul territorio fiorentino e di tutta diciamo la Piana fino a Prato, Pistoia, ma non solo, di organizzarsi, di parlare coi colleghi, di rivolgersi al sindacato, che possiamo essere noi, può essere qualcun altro, purché sia qualcuno che è disposto a lottare e a aiutare i lavoratori a raggiungere i propri risultati. Scusa, per essere chiari, voi sono Sudcobas. Sudcobas, ecco, no, sì. Per ridirlo più che altro per chi ci ascolta, sì, da casa. Sì, sì. Sì, il sindacato Sudcobas che si è sviluppato tra Prato e Firenze, che ormai da qualche anno sta lavorando su questo territorio, ottenendo insomma, cioè diciamo, riuscendo a sindacalizzare molti di quei lavoratori che si pensava non fosse possibile sindacalizzare, che invece stanno dimostrando di essere una forza inesauribile, di una generosità enorme, di persone che vanno a dormire agli scioperi degli altri, che prendono le ferie per andare allo sciopero degli altri lavoratori anche in altre città, anche in altre regioni. Quindi ecco, chiunque si trovasse sfruttato, sia perché vuole, è stato licenziato, ha chiuso il contratto di lavoro, vuole riprendere dei soldi che non gli sono stati dati, o che si trova in questo momento sfruttato al lavoro e voglia migliorare le proprie condizioni, il Sudcobas è pronto ad ascoltare tutti, accogliere e a lottare per tutti quelli che hanno voglia di appunto attivarsi e provare a cambiare le cose. ti ringrazio veramente tantissimo per aver ridetto ancora una volta a questi microfoni, per aver spiegato tutto ciò, per averlo ridetto in modo veramente chiaro, esemplare. Sono infatti contenta di averti lasciato spazio anche questi ultimi minuti per questo. E quindi ti ringraziamo appunto, grazie Cosimo Barbagli, riguardo a questo semmai microfoni aperti per ulteriori aggiornamenti, e ricordo, come dicevi, chiunque fosse interessato o interessata nel leggere, nell'approfondire il tuo lavoro di tesi ci può contattare a Radio Wombat, per esempio tramite la mail, la casella di posta, che è postawombat@insiberia.net, e noi possiamo girarla. Grazie ancora, ti auguriamo buona serata, buona giornata. Grazie a voi, grazie mille. Un saluto a tutte e tutti. Ciao. Quindi siamo sempre qui, sempre Ponte Radio, ci avviamo al prossimo contributo, e prima però magari vi facciamo uno stacco musicale per benino. Questi sono i Gatti Mezzi ed è Vango per passione. Vango la terra e mi sfogo, la rimugino, la batto, la sbriciolo, mi ci ritrovo. Non sono un contadino, vango per passione. Con gesto antio, le mano stringo ormani, or piede picio sul pallonzolo, buo la terra, centro dentro, ah bene, ah bene. I lombri non vanno ammazzati, stai attenta lombri. Prendo in mano una zolla grassa e profumata, l'annuso, poi la strizzo, ah bene. To lombrio godi, to godi, t'aiuto a buà, t'aiuto a andare più fondo, tieni la merda del cane ti do, t'aiuto, aiutami, trasformala. Vango per passione, mi rammentarmi babbino, vango e mi sfogo. Deve essere quel suono sordo, quel vibrio che mi arriva nel piede, puntellato sul pallonzolo. Si strappa la radicina, si spicciola il sassino, è lì che divento scemo. Non sono un contadino, lui dura fatia, si sfonda il groppone, si mola le mani, io godo e basta. Alla terra un niedo frutti, non mi do nemmeno semi, la buo, la rivorto, la sciupo, ma con garbo. Perché i bimbi scavano le bue? Cosa cercano bimbi quando scavano le bue? E ora lo so, non cerca nulla, scavano per passione. Deve essere piacere di veder vuoto dove prima non c'era. Bimbo, l'hai fatto te quel popò di buo? Sì, l'ho fatto io. Che popò di buo t'ho fatto? Ecco, è tutto lì. No, vabbè, verrebbe voglia di mettere Gatti Mezzi a manetta uno dopo l'altro, sono meravigliosi loro, chiaramente gruppo toscano, sarà capito. Vabbè, non perdiamoci però, andiamo avanti quindi, si diceva, con il prossimo contributo. Altro gruppo toscano, ma teatrale. Esatto, voi sarete le prime cavie in questo mondo auditivo ad ascoltare questa versione radiofonica dello spettacolo quasi inedito del Teatro Contadino Libertario, che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere, ma sono state fatte veramente pochissime repliche, una se non due massimo, E noi ci siamo lanciate, quindi volevamo intanto ringraziare il Ruvido che ha partecipato con noi e, come potrete poi ascoltare, è l'unica voce che si sente che sa fare teatro, però noi ci abbiamo provato e abbiamo fatto questo esperimento perché vi stiamo martellando con questa storia dei nuovi OGM da mesi, mesi e mesi, e quindi abbiamo pensato per stavolta di graziarvi e invece di mandarvi l'ennesima intervista pippone di mezz'ora sul perché noi non vogliamo questi nuovi OGM, vi mandiamo questo spettacolo che si chiama La banana aumentata. Quindi graziateci e buon ascolto. Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare, NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis, sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda delle TEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione. Quando tu sei con me, na na na na na na na na na na na na. Onde mi metto? Onde mi metterò? Ma qui è tutto fraviscio. Ma madonna, se non si rimette sto tempo, meno male stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto, giusto per poggiare il culo, perché sennò mi bagno. Allora, ai, ai, ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai. Vai, avanti, avanti. Ancora qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto. Almeno mi riposo, so da leggere, guarda. Via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro. Mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì. Ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame, madonna è fame, c'ho. Via, oh, guardiamo un po'. Allora. Ah. Eccolo lì, senti il profumo. Il pane. Che pane. Che pane, questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostra, macinato il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dentro. Ah, eccolo lì, con il pane ci vuole. Ci vuole il formaggio, ma senti il profumo. Questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti. Oddio, non c'ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuso da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte delle nostre pecore, ovviamente. E poi dopo il pane e il formaggio che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti sta mela. Sì, magari c'ha il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra. Tutta roba nostra. Dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, eh. Sempre la stessa roba, eh. E si mangia sempre la stessa roba. Sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, eh. Porca miseria. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guardi che c'è qua. Eh? Eccola là. Una banana. Una banana, senti il profumo, senti profumo di terre lontane. Che meraviglia, questi profumi da noi non ci sono. E poi guardi il colore, un colore di una frutta gialla, così gialla che io avevo visto una frutta gialla delle nostre, io non l'ho vista. Guarda il colore, di sole esotico. Oddio, il sera era gialla. Ma come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma, sì, insomma, però non è più gialla. Ma e ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, o guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga. Guarda che condizioni è quella. Ma. Vuoi che lascia? Che sembri in modo di essere vestito in campagna, con il tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Mando la rete ad andare a questa. E siamo lì nell'orto alla fonda. Onde va? E poi? Su quella valigia? Che vuole la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una delle esattori. No. Ah no, c'è scritto, che c'è scritto? Crisp Cass? Boh. Questa vende roba, te lo dico io. Salve! Sì, buongiorno. Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma... Che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via! Prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla che non diventa mai marrone! Oh! Ma... oh, ma questa... ma questa sta morendo... Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! Ma... c'è qualcuno in sala? Ma... c'è un dottore, per favore! Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento? Io, venga qua. Sta morendo, anzi, secondo me è già morta. Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando? Stava mangiando una banana. Lei è stato testimone dell'accaduto? Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vede la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì... E la banana gliel'ha data lei? No, lei l'ha data a me. Io c'avevo la mia e lei mi ha dato la sua, ce l'aveva una valigia piena. Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane? Sì, aumentate. Come, scusi? Le banane sono aumentate. E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto? Ma chi? Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando? Ma che ne so io? Ma, ma, Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità. Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISP. CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Io no, noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo. Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare. No, no, lei non capisce. Questo, qui c'è un problema di smaltimento, non esiste una procedura per questo, dove lo mettiamo, cioè che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo e io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani. Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata è questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte, io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? O oh, guarda che povera donna, così, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo... E dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Cosa me l'ha data lei? No, no, no, no, no, no, no. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via, non è, eccola lì, eccola lì. Ma, oddio. Lei è un po' nera, ma che ossidata. È matura, via! Never alone on the dome. you are what you eat, and you are what you eat, and you're even what you eat, eats, eats, and it repeats, it repeats, it repeats, it repeats, it repeats. Down, down, down. Ed eccoci quindi che torniamo in voce. Torniamo in voce dopo questo stupendo, devo dire, complimenti, teatro radiofonico. Sì, ci stava effettivamente sentire gli stessi argomenti in un altro, in un'altra forma, in un altro modo. Questa canzone avete sentito, erano i Formidable Vegetable, You Are What You Eat, un gruppo di pazzoidi australiani. Vabbè, a parte questo, vi rimando qualche secondo di musica e prepariamo l'ultimo collegamento per quest'oggi e ci risentite quindi fra pochissimo. Ed eccoci quindi appunto con il nostro ultimo collegamento di quest'oggi. Ciao, ci senti? Ciao, buonasera a tutti e a tutti. Wow, ti si sente benissimo, perfetto. Va bene. Perfetto. Allora, quindi come si diceva in apertura di puntata, siamo qui a parlare con una compagna del neonato collettivo, poi correggimi se mai se sbaglio, Seeds for Palestine, che ci racconterà oltre chiaramente a raccontarsi, quindi ci spiegherà un po' i loro obiettivi e che cosa si, appunto, su, di che cosa si occupano, però ci parlerà anche un po' in generale della situazione in Palestina per quanto riguarda strategie malefiche di genocidio anche tramite, per esempio, uccisione di, diciamo, sì, confisca e uccisione di varie genomi, genetiche. Quindi ti lascio in realtà subito la parola, così ci fai un po' una panoramica. Va bene, grazie, grazie mille Addo, grazie di questo invito, è molto importante per noi. Come anticipavi, io rappresento in questo momento questo neonato coordinamento, Seeds for Palestine. Siamo un insieme di realtà agricole, insomma, o di curatori e curatrici a vario titolo del verde e della biodiversità, che si mette insieme con degli scopi precisi, ma di questo parlerò alla fine di questo intervento. Vorrei partire dallo spiegare che cos'è WWOC, non so, è stato detto, magari è stato nominato ultimamente nella cronaca, perché da poco ha ricevuto un attacco, a dicembre ha ricevuto un ultimo attacco, sono stati incarcerati tutti i suoi membri. Ma che cos'è WWOC? È la Union of Agricultural Work of Committees, è l'Unione dei Comitati Agricoli Palestinesi, che nasce nel 1986 e che diventa da subito una infrastruttura fondamentale della prima intifada. E il loro lavoro è stato sostanzialmente quello negli anni di supportare il lavoro dei contadini e delle contadine, di tutte le lavoratrici e lavoratori agricoli palestinesi durante gli anni di occupazione. e un altro importantissimo scopo per loro è stato quello di tutelare e preservare il patrimonio sementifero palestinese, aprendo delle banche di semi. Ora, a luglio di quest'anno le banche di semi sono state distrutte dal governo israeliano e a dicembre, luglio dell'anno scorso, siamo già nel 2026, e a dicembre del 2025 è stata chiusa l'ultima delle loro sedi, sono stati incarcerati tutti i loro membri, tra cui il direttore Fuad Abu Saif. Parlerò ancora di questo, ma prima vi volevo leggere uno dei comunicati che si trova sul sito, scritto appunto da Fuad, la cui traduzione è nostra, e ringrazio in particolare una delle compagne del nostro coordinamento, Fadia, che è anche un po' l'autrice di questo intervento che vi sto riportando. Allora vado, vi leggo le sue testuali parole. In Palestina l'agricoltura non si svolge in condizioni normali, ma viene sotto assedio, all'ombra dei bulldozer e della minaccia quotidiana di essere rimossi dalla propria terra. Ciò che si sta dispiegando nella comunità rurale è uno sforzo calcolato per recidere il legame tra le persone e la loro terra, svuotare le campagne dei loro abitanti e spezzare la volontà collettiva attraverso strumenti coordinati di confisca, incendi, blocchi e fame. Eppure la terra continua ad essere coltivata come atto di determinazione. Chi pianta oggi non insegue semplicemente un raccolto, si aggrappa ad una genealogia, affermando con il proprio lavoro che la terra non si misura in ettari, ma in dignità, memoria e vita. Ogni stagione lavorata da mani palestinesi scrive una nuova riga nella storia ininterrotta della resistenza. Ed ecco, queste sono le parole di Fuad, che con grande sintesi riesce ad esprimere quello che sta succedendo in Palestina ormai da moltissimi anni e a esprimere il modo in cui agricoltrici e agricoltori palestinesi sono diventati la prima linea di resistenza, forse anche l'ultima linea di resistenza nel progetto coloniale sionista. Di letteratura ce n'è moltissima, di fonti su internet se ne possono trovare tantissime sulla violenza quotidiana che vivono appunto le comunità rurali palestinesi da parte sia dei soldati israeliani ma sia dei coloni. Per continuare questo intervento vorrei subito anticipare che a noi preme mettere in evidenza un doppio focus. Da una parte abbiamo il genocidio, il progetto colonialista che si fonda su una strategia genocidaria e che ha come bersaglio appunto la sovranità alimentare, quindi il mondo agricolo, il colonialismo verde appunto del progetto israeliano e quindi di come genocidio ed ecocidio in questo senso siano intensamente interrelati. Il secondo focus, di cui parlerò più avanti, e appunto ci preme sottolineare e far emergere come questo progetto israeliano, questa vicenda specifica palestinese, sia una delle tante manifestazioni del progetto capitalista e della distruzione su cui il progetto capitalista si fonda. Ed è appunto quindi non solo una vicenda locale, ma è una vicenda che ci riguarda tutte e tutti. E quindi vorremmo portare la vicenda palestinese come chiave di lettura, perché mai come negli ultimi periodi ha portato a galla ed è diventato evidente, vorrei chiamarlo un trend che purtroppo pervade tutto il nostro pianeta, e quindi sostanzialmente la distruzione dei saperi locali e delle comunità rurali in favore del profitto di multinazionali e appunto di progetti capitalisti. Ma facciamo un passo indietro. L'attacco che ha ricevuto appunto WAC fa parte di un progetto, quindi, ed è importantissimo renderci conto di come tante azioni che sono state perpetrate negli anni dal governo israeliano e che inizialmente potevano sembrare non correlate tra di loro, in realtà fanno parte di un progetto molto molto preciso. Per esempio, non a caso l'attacco il 31 luglio del 2025 all'ultima banca dei semi locali palestinesi gestita appunto da WAC nella zona di Hebron nel sud della West Bank avviene in un momento particolare, e cioè avviene nel momento in cui a Gaza si cominciava a parlare di carestia e fame diffusa. Intanto voglio sottolineare che a Gaza il 98% delle terre agricole erano già state messe completamente rase al suolo negli ultimi 2 anni di genocidio. E quindi abbiamo appunto una grande città che capitola in pochissimo tempo e un territorio contadino che insomma costituisce la resistenza del popolo palestinese proprio perché appunto le grandi città hanno capitolato immediatamente, un contorno contadino che spaventa molto in qualche modo il progetto israeliano o perlomeno è stato fin da subito un obiettivo. Ad esempio abbiamo sentito tutte parlare della distruzione degli ulivi. Ecco, la distruzione degli ulivi è direttamente collegata alla fame che si vive a Gaza. La distruzione dei semi che rende un popolo autonomo è direttamente collegata alla fame che si vive a Gaza. E l'inizio di tutti questi eventi si colloca ancora prima della Nakba del 48, addirittura con la dichiarazione di Balfour del 1917. Quindi parliamo di un secolo e mezzo di colonizzazione e di progetto ecocidario. Ma approfondiamo. L'obiettivo è sicuramente quello di sradicare i palestinesi dalla terra e rompere questo legame al fine di espellerli dalla Palestina storica, questo lo sappiamo. Questo progetto si è sviluppato in forme sia genocidarie che ecocidarie, distruzione di ogni forma di vita sulla terra. Faccio degli esempi. La distruzione degli olivi non è un evento recente, è dal 1967 che Israele persegue questo progetto e si stima che gli olivi distrutti da allora superino gli 800.000 esemplari. Ma non solo da parte delle forze militari, anche dai coloni sono arrivate violenze. I coloni hanno bruciato campi, hanno scaricato acque reflue sulle colonie israeliane, acque reflue che presentano incredibili quantità di pesticidi. Hanno introdotto grandissime quantità di cinghiali affinché potessero distruggere le terre agricole e costringessero i palestinesi a recintare le loro terre con costi a volte insostenibili e quindi a questo punto ad abbandonarle. Non solo, da parte militare, a partire dagli anni 70 e 80 si sono succeduti una serie di ordini militari che hanno reso necessari tutta una serie di certificati e di autorizzazioni per coltivare la terra, per tornare sulla terra espropriata, per utilizzare strumenti. È stato bandito l'utilizzo di macchine, di macchinari agricoli, è stata criminalizzata la raccolta di piante selvatiche. È stata criminalizzata la stessa WAC che è entrata nella lista delle associazioni terroristiche e, come dicevo, è stata criminalizzata lo scambio di semi tra contadini. Questo ovviamente ha tutta una serie di risvolti, ma mi interessa qui fare un inciso. Dobbiamo dubitare di chi omette questi processi di lunga data, di lunga durata. Dobbiamo dubitare di chi fa cominciare la storia il 7 ottobre dicendoci che il problema sia Netanyahu e 3 colonie armate, perché il problema qui è strutturale, i dati storici ce lo dimostrano. Qui c'è in maniera incontrovertibile l'esistenza di un vero e proprio progetto colonialista in Palestina, supportato attivamente dall'imperialismo occidentale. E qui abbiamo degli esempi evidenti. Sono state espropriate terre, sono stati vietati le sementi autoctone. Quello che Israele sostanzialmente fa è espropriare la terra, portare semi ibridi, quindi sostanzialmente semi sterili, fare le proprie coltivazioni e poi vendere i propri prodotti agli stessi palestinesi. Quindi minare la sovranità alimentare palestinese è un obiettivo perseguito da decenni attraverso quindi tutta questa serie di distruzioni di appunto infrastrutture agricole, campi, banche di semi, bestiame, ulivi. Ora, perché dicevo che il secondo focus è quello del riportare questo progetto colonialista in un quadro più grande, cioè un quadro di espansione capitalista nel mondo? La distruzione, come diceva Naomi Klein, il capitalismo dei disastri, è la base di accumulazione per i progetti coloniali e capitalistici. È necessaria per continuare a fare profitto. Dunque, per Israele, la distruzione della terra non solo è necessaria per controllare i palestinesi, ma è necessaria proprio per espandere la propria produzione. Sono due cose che vanno di pari passo. Dei dati, ad esempio, durante il mandato britannico, fino agli anni 50, la Palestina produceva abbastanza grano da essere autosufficiente. Oggi ne importa più del 90% dall'estero, con l'Israele che ci prende tutti i guadagni. Oggi si stima che solo l'1,5% dei suoli agricoli della striscia di Gaza sia ancora coltivabile. Dunque, scusate. No, ti ringrazio intanto veramente tantissimo per questa panoramica agghiacciante. Beh, sarà un commento forse un po' banale, però è interessante mettere in evidenza adesso questo tipo di meccanismi che stanno avvenendo, ma da appunto decenni in Palestina, perché sotto un'altra forma, in un altro modo, sono stati imposti anche qui da noi. Anche qui da noi è difficile Esattamente. trovare sementi locali, sementi appunto che sono Sì, state selezionate quella. nei secoli, no? Per ogni ambiente specifico italiano, nel nostro caso, e agli shop si trovano soltanto quelli appunto commercializzati che spesso appunto, per esempio, per dirne una, sono sterili. Quindi è Esattamente. interessante anche fare il parallelismo e vai, ti lascio continuare, non volevo in realtà Grazie. interrompere Vai il flusso. tranquilla. Quindi sì, questa è sicuramente una delle cose che dobbiamo assolutamente far emergere. È chiaro che la scusa che si usa è quella del passaporto delle sementi. Questo è chiaro che un import-export di semi sia assolutamente da normare. Ed è quindi, ma è anche vero che questa normativa poi nasconde situazioni di grande disequilibrio di potere. Quello che è stato vietato non è tanto l'esportazione, no, di grandi produzioni di semi, ma è proprio lo scambio autonomo e indipendente tra piccoli contadini. E questo succede ormai ad ogni latitudine, è successo in Sud America, ma succede anche in Italia. E quindi appunto capitalismo, colonialismo, genocidio, ecocidio sono quattro facce di uno stesso dado all'interno della vicenda palestinese. Israele cosa fa? Controlla tutte le merci che entrano ed escono, confisca le terre, avvia, ragazzi, avvia agrobusiness ad altissimo profitto, dove spesso impiega manodopera palestinese sottopagata, e dopodiché rivende questi prodotti agli stessi palestinesi. Il progetto è più che evidente, diciamo. Quindi non si tratta di colonialismo e basta, si tratta proprio di progetto capitalista, e la distruzione della sovranità alimentare palestinese serve per avanzare questo progetto coloniale, la distruzione dei saperi locali serve per avanzare questo progetto, e questo lo vediamo ormai, appunto, come dicevamo, in tante parti del mondo. Quindi noi come associazione, come coordinamento, abbiamo questa necessità, cioè noi vogliamo sicuramente manifestare una solidarietà con la Palestina, ma allo stesso tempo vogliamo che la vicenda palestinese non sia questa distruzione non sia avvenuta invano, e che possa essere una chiave di lettura per quello che succede intorno a noi, e che possa portarci a riflettere sul rapporto che noi stessi abbiamo con le nostre campagne e con i nostri semi. Anche il rapporto tra città e campagna, secondo me, è interessante, perché vediamo che una grande città che finché sta bene non si rende conto di quanto dipende dalle proprie campagne, ma in una situazione di guerra le città sono le prime a capitolare, sono le prime a cadere a terra. E quindi come ci prepariamo a questo? Come ci tuteliamo rispetto a questo? E quindi ed è qui che la riproduzione di semi che noi vorremmo mettere in piedi è legata a una necessità politica di riappropriarci di un sapere territoriale, di un'indipendenza, di condivisione. E quindi diciamo il nostro atto, che appunto è quello di riprodurre sementi autoctone palestinesi, se le troviamo, o se no di varietà affini, per cui stiamo iniziando una serie di ricerche. Che ci tengo a dire, non stiamo facendo per conto di WAC, con cui non abbiamo purtroppo più contatti a partire da dicembre, ma è un progetto primariamente appunto politico, in cui è molto importante per noi la dimensione divulgativa, cioè è arrivato il tempo di prendere atto di come il potere delle multinazionali, il potere dei progetti capitalisti stia distruggendo la nostra biodiversità, stia distruggendo le nostre acque, stia distruggendo le nostre terre. E questo è qualcosa che non possiamo più permettere. Ed è molto al di là anche della stessa vicenda palestinese. Qui parliamo di ripercussioni che andranno avanti per moltissimi anni. se abbiamo intenzione di lasciare qualcosa ai nostri figli, è arrivato il momento, insomma, di fare qualcosa. E quindi nel nostro piccolo, noi come gruppo di realtà agricole romane e laziali, appunto, siamo uniti in questa volontà di riprodurre e costruire il patrimonio sementifero palestinese, difendere la nostra terra, la nostra biodiversità. E quindi, ecco, grazie di questa chiamata, noi vorremmo assolutamente espandere questo invito a tutti. Stiamo progettando interventi che possono essere fatti sia su appezzamenti di terra, ma anche nei balconi. Quindi chiunque sia interessato ad aiutarci a divulgare questa cosa può scriverci e saremo felici di condividere, insomma, quello che scopriamo, quello che troviamo. E quindi, ecco, insomma, l'idea è quella, al di là se noi riusciremo a portare questi semi in Palestina, al di là se riusciremo, appunto, se WAC riuscirà a tornare, insomma, operativa, perché in questo momento non lo è, faremo in modo che ci sia un po' di Palestina in ognuno dei nostri balconi e che questo possa portarci a guardare con più interesse alle nostre stesse realtà agricole in tutta Italia e a dare supporto a una parte fondamentale del benessere non solo alimentare ma anche culturale della nostra penisola. Senti, a questo proposito, giusto per così approfondire anche per curiosità, i semi, appunto, cercate di recuperarli, ma tramite quali reti, a parte magari persone dicono io ce li ho e vi scrivono e questo sicuramente è possibile, se avete magari contatti specifici con degli agricoltori, agricoltrici palestinesi? Allora, in questo momento sì, noi siamo divisi in due gruppi, un gruppo si occupa sostanzialmente della comunicazione che, come ti dicevo, è una parte fondamentale e stiamo sviluppando dei programmi di divulgazione. L'altro gruppo si sta occupando della ricerca sementifera e in questo momento siamo in comunicazione con alcune realtà che diciamo hanno progetti in Palestina e quindi sì, è ovviamente molto difficile, come ti dicevo, trasportare i semi da una parte all'altra perché tutti questi trasporti hanno bisogno di passaporti, ma questo non solo in Palestina, questo in tutto il mondo. Certo, sì. Quindi su questo abbiamo... posso consigliare, comunque le valigie in stiva funzionano spesso. Esattamente, quindi per dire, diciamo, non tanto abbiamo contatti di carattere informale e personale, non abbiamo appunto... Come ti dicevo, non stiamo riproducendo per conto di WAC, non abbiamo contatti formali, ma stiamo raccogliendo una serie di contatti informali. Ci sono in realtà diverse realtà palestinesi anche qui in Italia con cui stiamo dialogando. Quindi ecco, i lavori sono apertissimi e stiamo cercando di fare il più possibile, insomma, per arrivare alla primavera con qualcosa da seminare. Abbiamo... E come ti dicevo, al di là del seme autoctono, stiamo facendo una ricerca su eventuali varietà affini. Quindi, dato che fortunatamente il nostro clima è mediterraneo, ci sono diverse varietà che noi possiamo in qualche modo continuare a sviluppare. Custodire. E come ti dicevo, a custodire e propagare. E quello che ti volevo dire è che appunto... è un'azione politica primariamente per noi, è un'azione con cui vogliamo assolutamente coinvolgere persone per fargli arrivare una serie di consapevolezze. Quindi, certo. Appunto, sì. Ottimo, ottimo. Ti chiediamo in chiusura se magari puoi darci appunto questi contatti per chi fosse interessato o interessata a saperne un po' di più di quello che state facendo e magari a contribuire, come si può contattarvi? Allora, al nostro contatto abbiamo una mail, Seeds for Palestine, quindi Seeds for è numerico, quindi Seeds 4 Palestine. @gmail.com. Potete scriverci a questa mail Stiamo sviluppando il progetto anche di una pagina sociale di un blog, ma ancora non sono pronte. Ma insomma, per qualsiasi tipo di richiesta o se volete partecipare ai nostri lavori, sono tutte e tutti ben accetti. Perfetto, grazie. Sì, direi che l'aspetto dei semi ci interessa molto, in quanto sia io che Dama facciamo parte del nodo fiorentino di Genuino Clandestino, quindi ovviamente Ah, che bello. ci farebbe piacere sia poter dare un contributo nel caso troviate varietà appunto e possono essere appunto seminate anche là, o anche solo ad avere contatti con qualcuno invece del giro più laziale, insomma ci farebbe piacere contribuire. Benissimo, benissimo, è molto bello saperlo. Vi scriveremo allora. Ok. Perfetto, ti ringrazio veramente, veramente tantissimo per questa, appunto, per tutto ciò che hai detto, tutto ciò che hai ricordato, che noi ascoltatrici, ascoltatori, noi della radio, tutte noi sappiamo, ma è sempre bene risaperlo, non so come dire, Sì. riascoltarlo e come dici te, appunto, anche diffonderlo, quindi giustamente l'obiettivo comunicativo è altrettanto non utile, necessario proprio. E ti ringrazio veramente tantissimo, a risentirci, appunto si stanno già creando nuove reti, per cui sicuramente a risentirci e sperando che questi progetti riescano a cambiare qualcosa piano piano. Sì, grazie mille, sempre Palestina libera. Assolutamente, Palestina libera, grazie. Rientriamo quindi in voce, siamo arrivate al termine di questa puntata di Ponte Radio. Giovedì 22 gennaio 2026, ormai non si era detto. Quindi questa era Radio Wombat per questo Ponte Radio. Vi rimandiamo quindi alla puntata di prossima settimana del Ponte Radio, che sarà l'ultima tema cibo, tema veramente ampio, si può toccare veramente un sacco di altri argomenti Chi con più ne ha, questo. chi più ne metta. Siamo stupite della nostra puntualità. Sì, abbastanza, infatti, abbiamo addirittura qualche minuto di tempo in più, non ce l'aspettavamo. Che dire, quindi vi salutiamo e ricordiamo che chiunque fosse interessato a questi temi su Radio Wombat, quindi la radio di Firenze che partecipa al Ponte Radio, c'è tutte le settimane, il venerdì dalle 15:30 alle 17:30. La trasmissione in onda, la trasmissione Radio Contado, che come si capisce dal nome, ritratta, rianalizza e rischerza anche a volte, dai, su tutti questi temi. Quindi, dopo aver ascoltato questa puntata, subito per chi vorrà Esatto. sintonizzarsi sulle onde di Wombat, risentirà le nostre meravigliose voci. Non Esatto. odiateci, ma oggi è così. Oggi è così. Bene, un salutone, quindi mandiamo un ultimo pezzo. Che pezzo è? Che pezzo è? Lost in the Clash. Esatto, Lost in the Supermarket. Ci piace. Buona serata, buona continuazione di ascolto su Wombat o no. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Personality.